I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Per ora nella vicenda Vivendi contro Fininvest stanno volando e crescendo in primo luogo gli stracci. Breve riepilogo. Il colosso dei media francese, guidato da Vincent Bolloré, dopo aver annunciato lunedì di puntare al 20% di Mediaset, ieri ha comunicato di essere salito oltre il 12% del gruppo del Biscione, in una giornata in cui il titolo è arrivato a guadagnare fino al 35% e soprattutto è stato scambiato oltre il 10% del capitale. Fininvest, che resta il socio di maggioranza relativa col 35% di Mediaset, dal canto suo ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica e alla Consob per manipolazione del mercato, denuncia chiaramente contro i francesi di Vivendi. Detta così, sembrerebbe, tra virgolette, solo una guerra per il controllo di Mediaset, ma non sfugge a nessuno che l'obiettivo è ben più alto, ossia la convergenza tra chi produce i contenuti, Mediaset in questo caso, e chi controlla le reti su cui viaggiano questi contenuti, per esempio Telecom Italia. Perché Telecom? Perché i francesi di Vivendi sono già l'azionista di riferimento di Telecom Italia, avendone il 24%. Ecco perché in prospettiva viene da chiedersi se abbia e avrà un senso una guerra vera e propria tra Bolloré e Berlusconi, o non abbia invece più senso un accordo tra i due che porti poi a un'integrazione o cooperazione tra Telecom e il gruppo Mediaset, visto che questo è lo scenario che si delinea nel mondo dei media e delle telecomunicazioni a livello mondiale. Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà, nella speranza che prevalgano sempre e comunque le logiche industriali e quindi di valorizzazione dei gruppi e non quelle personalistiche. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Proprio mentre il Senato si preparava a votare la fiducia al nuovo governo, poi arrivata con 169 voti a favore, l'altro ramo del Parlamento stava approvando il decreto sul terremoto, che ora è diventato legge. Il testo è stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche, il che in questa fase di grandi scontri tra i partiti rappresenta in qualche modo la presa di coscienza sulla necessità di dare risposte urgenti alle popolazioni colpite dal sisma. Peraltro domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Arquata del Tronto per la sua quarta visita nei comuni devastati dal terremoto. Comunque il decreto, dicevamo, con il provvedimento vengono stanziati 500 milioni di euro per il sostegno alle zone colpite dalle scosse. Si conferma che l'attuazione degli interventi sarà affidata al commissario straordinario Vasco Errani. Il ruolo del commissario peraltro sarà molto molto rilevante, perché sarà proprio lui a provvedere alla determinazione dei contributi che saranno assegnati a chi ha subito danni, contributi che dovrebbero arrivare fino al 100% delle spese sostenute per chi ha avuto sia l'abitazione sia l'attività produttiva danneggiata. Molto importante è anche quella parte che prevede misure di sostegno sia per le attività economiche sia per chi ha perso momentaneamente il lavoro a causa del sisma. Tra le azioni concrete ci sono la cosiddetta busta paga pesante per i dipendenti, quali percepiranno di fatto lo stipendio lordo, sia la sospensione del pagamento dei tributi, delle utenze e dei premi assicurativi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.